L'ingresso del quartiere dei bordelli da Mabot Street, davanti al quale si stende un binario morto, disselciato, con scheletri di rotaie, fuochi fatui rossi e verdi e segnali luminosi. File di case sporche con porte spalancate, rare luci dai deboli schermi ridati. Attorno alla gondola del gelataio Rabaiotti, uomini e donne rattrappiti leticano. Stringono in mano cialde, tra le quali sono inseriti blocchi di neve color carbone e rame. Succhiando, si disperdono lentamente. Bambini. La cresta a collo di cigno della gondola, eretta, si spinge avanti nella penombra, bianca e azzurra, sotto un faro. Fischi chiamano e rispondono. I richiami. Aspetta, amor mio, e sarò da te. Le risposte. Laggiù, dietro la stalla! Un idiota sordomuto con gli occhi sporgenti, la bocca senza forma, sbavante, passa muovendosi a scatti nella stretta del ballo di San Vito. Una catena di mani infantili lo imprigiona. I bambini. Mancino, fa il saluto! L'idiota alza il braccio sinistro paralizzato e barbuglia. Grauto! I bambini. Dov'è la gran luce? L'idiota, facendo glo glo. Go-go-go-est! Lo lasciano andare. Va via a strattoni. Una nanerottola dondola su una fune tesa tra due ringhiere, contando. Una sagoma distesa contro un bidone di spazzatura e riparata dal braccio e dal cappello si muove, geme, con uno stridore ringhioso di denti e ricomincia a russare. Su uno scalino, un ognomo che raspa in un mucchio di spazzatura si accoscia per mettersi in spalla un sacco di cenci e rifiuti. Una vecchiaccia vicino a lui, reggendo un lume a petrolio fumoso, caccia un'ultima bottiglia nel collo del suo sacco. Quello alza il suo bottino, si infila di traverso il berretto a visiera e s'allontana, zoppicando in silenzio. La vecchia si avvia alla sua tana, dondolando il lume. Un bambino dalle gambe torte, acquattato sulla soglia con un volano di carta, le striscia dietro di sbieco, a sbalzi, si attacca alla sottana, si tira su. Uno stradino ubriaco si aggrappa con tutte e due le mani alla ringhiera di un interrato, beccheggiando pesantemente. A un angolo due guardie notturne mantellina, le mani sulla fondina dei manganelli giganteggiano nell'ombra. Un piatto si rompe, una donna grida, un bambino geme. Bestemmie di un uomo ruggiscono, mormorano, si spengono. Figure vagano, si appiattano, sbirciano dalle loro garenne. In una stanza illuminata da una candela infilata in un collo di bottiglia, una megera leva con un pettine le croste dai capelli di un bambino scrofoloso. La voce di Sissi Caffri, ancora giovane, sale acuta da un vicolo. Sissi Caffri. A Molly Lopurdato, a quella mattacchiona, del gatto lo zampino, del gatto lo zampin. Il soldato Carr e il soldato Compton, i bastoncini ben saldi sotto le ascelle, nel marciare con passo malfermo, fanno dietro fronte e prorompono in una pernacchia rumorosa e simultanea. Risa d'uomini dal vicolo. Una virago, replica Roca. La virago. Il malocchio su di te, culo peloso! Evviva la ragazza di Cavan! Sissi Caffri. Buona fortuna a me, Cavan! Good deal e bel tarbet! Canta. Anelli Lopordato. Se lo cacci nella pancia, del gatto lo zampino. Del gatto lo zampin. Il soldato Carr e il soldato Compton si voltano e controreplicano, le loro giubbe di vivido rosso sangue alla luce dei lampioni, le nere calotte dei berretti sulle zucche biondo rame. Steven Dedalus e Lynch passano attraverso la folla vicino alle giubbe rosse. Il soldato Compton agita un dito. Largo al parroco! Il soldato Carr si volta e grida: Ehi là, parroco! Sissi Caffri, a voce ancor più alta. L'ha preso, l'ha preso! Ma dove l'ha messo del gatto lo zampino? Steven, brandendo in aria il bastone di frassino nella mano sinistra, salmodia all'introito dell'ufficio Pasquale. Lynch, berretto da fantino basso sugli occhi, lo accompagna, col volto corrugato da un ghigno di disgusto. Steven. Vidi aquam egredientem de tempio alatere dextro. Alleluia! Le zanne affamate d'una vecchia ruffiana spuntano da una porta. La ruffiana, sussurrando con voce roca. Sss, venite qua, che vi devo parlare. Verginità all'interno. Sss. Steven. Alcius aliquantulum. Et omnes ad quos pervenit aqua ista. La ruffiana sputa dietro a loro il suo spruzzo di veleno. Studenti in medicina di Trinity, tromba di Falloppio, tutti verga e manco un soldo. Eddie Borman, stronfiando, accoccolata con Berta Supple, si tira lo scialle sul naso. Eddie Borman, litigiosa. E dice lei, t'ho visto in Fateful Place col tuo scozzonatore, l'operaio della ferrovia, col suo cappello da vieni a letto. Davvero, dico io, non sta a te dirlo, dico io. Mica mai vista far pane con un montanaro sposato, dico io. È uno di quei tipi, vipera che non è altro, testarda come un mulo, e andare a spasso con due alla volta. Kilbride, il macchinista e il soldato scelto Oliphant. Steven, triunfaliter. Salvi facti sunt. Fa roteare il bastone mandando in frantumi l'immagine della lampada, spargendo luce sul mondo. Uno spaniel bianco e rosso cupo in cerca di preda gli si infila alle calcagna ringhiando. Lynch lo spaventa con un calcio. Lynch, e allora? Steven. Guarda indietro. E quindi il gesto, non la musica, e neppure l'odore sarebbe un linguaggio universale, il dono delle lingue che rende visibile non il senso corrente, bensì la prima entelechia, il ritmo strutturale. Lynch. Filoteologia pornosofica, metafisica a Mecklenburg Street. Steven. Abbiamo Shakespeare con una moglie bisbetica e Socrate con una moglie megera. Anche il saggio dei saggi, lo stagirita, subì il morso e la briglia e fu montato da una fraschetta. Lynch. Bah! Steven. Comunque, chi ha bisogno di due gesti per illustrare una pagnotta e una brocca? Questo movimento illustra la pagnotta. E la brocca di pane e di vino in Omar. Tienimi il bastone. Lynch, va a farti friggere te il tuo bastone. Dove si va? Steven, oh Lynch lubrica, dalla belle dame Summersea, Georgina Johnson, ad deam qui letificat juventutem meam. Steven lo obbliga a prendere il bastone e tende lentamente le mani in avanti, tirando indietro il capo. Finché le mani non sono distanti una spanna dal petto, le palme in basso, in piani che si intersecano, le dita in procinto di aprirsi, la sinistra più alta. Lynch. Qual è la brocca di pane? Poco cale, questo o la dogana? Piacciati di illustrare. Prendi la gruccia e cammina. Passano. Tommy Caffrey si dirige di corsa verso un lampione a gas, lo afferra e si arrampica con fatica. Arrivato alla sbarra in cima, scivola giù. Jackie Caffrey l'afferra per arrampicarsi. Lo stradino beccheggia contro il lampione. I gemelli sgattaiolano via nel buio. Lo stradino, ondeggiando, si schiaccia l'indice contro una pinna del naso e proietta dall'altra narice un lungo getto liquido di moccio. Mettendosi in spalla il lampione, si allontana barcollando fra la folla con la sua torcia ardente. Serpi di nebbia fluviale strisciano lentamente. Da fogne, fessure, pozzi neri, mucchi di immondizie si alzano da ogni parte fumi stagnanti. Un chiarore balena a sud, oltre la foce del fiume. Lo stradino, barcollando, fende la folla e beccheggia verso il binario morto. Dall'altro lato, sotto il ponte ferroviario, appare Blum, rosso in viso, ansimante, ficcandosi pane e cioccolata in una tasca. Dalla vetrina di parrucchiere di Gillen, un ritratto composito gli mostra l'immagine del prode Nelson. Uno specchio concavo alato gli presenta il derelitto d'amore ormai perduto, lugubre Bulu Hum. Il grave Gladstone lo guarda dritto negli occhi, Blum per Blum. Egli passa, colpito dallo sguardo del truculento Wellington, ma nello specchio convesso sogghignano incolpiti gli occhi bonari e le gote a bracciola rotondette di Poldacciuolo, Pollo Tristanzuolo. Alla porta di Antonio Rabaiotti, Blum si ferma, sudato sotto la splendente lampada d'arco. Sparisce. Dopo un momento riappare e avanza in fretta. Blum. Pesci e patatine. Niente buono. Ah! Sparisce Dahlhausen, il norcino, sotto la saracinesca calante. Pochi istanti dopo emerge da sotto la saracinesca Poldino sbuffante. Blum, soffiante. In ciascuna mano tiene un pacchetto, uno contenente un tepido zampetto di porco, l'altro un freddo zampino di pecora cosparso di pepe grosso. Ansima, mettendosi ritto, poi, chinandosi da una parte, si stringe un pacchetto contro una costola e geme. Oh, fitta nel fianco, perché mi sono messo a correre? Riprende fiato con attenzione e avanza lento verso il binario morto con le sue luci. Il chiarore balena di nuovo. Cos'è? Un faro? Riflettore? Si ferma all'angolo di Cormac a guardare. Aurora Borealis o un altoforno? Ah, i pompieri, naturalmente. Comunque a sud. Gran fiammata. Forse la casa di lui. La tana del lupo. Noi siamo fuori pericolo. Canticchia allegramente. Londra brucia. Londra brucia, al fuoco, al fuoco! Lo stradino che beccheggia attraverso la folla sull'altro lato di Talbot Street attira la sua attenzione. Finirò per non trovarlo. Corre, svelto, meglio attraversare qui. Si slancia ad attraversare la strada. Urla di Monelli. Attenzione, signore! Due ciclisti, coi lumini di carta accesi ondeggianti, lo sfiorano toccandolo, campanelli scampanellanti. I campanelli. Stop din, stop din, stop din. Blum si ferma colpito da un crampo. Ai! Si guarda in giro, si slancia un tratto in avanti. Attraverso la nebbia che si alza, un drago di vettura tranviaria di servizio, a passo prudente, striscia pesantemente verso di lui, il suo enorme fanale rosso ammiccante, la puleggia fischiante sul filo. Il manovratore fa risuonare il campanello a pedale. Bang bang black back black back blu. Il freno geme violentemente. Blum, alzando una mano guantata di bianco da poliziotto, arranca con le gambe irrigidite fuori del binario. Il manovratore, proiettato in avanti, col naso rincagnato, sul volante, urla, passando su catene e ingranaggi. Ehi, cacaletto, stai lì a fare il trucco del cappello? Blum saltabecca sul marciapiede e si ferma di nuovo. Si spazzola via una macchia di fango dalla gota con la mano pacchettosa. Blum, strada vietata. C'è mancato poco, ma ha guarito la fitta. Devo riprendere a fare gli esercizi di Sandow. Giù, sulle mani. E assicurarmi contro gli incidenti stradali anche. La provvidenziale. Si tocca la tasca dei pantaloni. La panacea della povera mamma. Facile che un tacco rimanga in una rotaia o una stringa in una ruota. Quella volta che il furgone della polizia mi tolse la scarpa all'angolo di Leonard. La terza volta è quella buona. Il trucco della scarpa. Che insolente quel manovratore. Dovrei fargli un reclamo. È la tensione che gli rende nervosi. Potrebbe anche essere quello che mi ha fregato stamani con quella specie di amazzone. Stesso genere di bellezza. Però è stato svelto. Passo rigido. La verità detta per gioco. Quel crampo spaventoso in Led Lane. Qualcosa di velenoso che avevo mangiato. Segno di fortuna. Perché? Probabilmente bestiame perduto. Il marchio della bestia. Chiude gli occhi un istante. Oh, testa un po' svaporata. Storia di tutti i mesi. Oppure l'effetto di quell'altra. Cefalnebialgia. Quel senso di stanchezza. Troppo per me ormai. Ahi. Una figura a sinistra si appoggia a gambe intrecciate al muro di Auvergne. Un volto ignoto, iniettato di cupo mercurio. Di sotto un sombrero ad ampia tesa, la figura lo guarda di malocchio. Blum. Buenas noches, signorita Blanca. Que calle es esta? La figura, impassibile, alza un braccio a mo' di segnale. Parola d'ordine. Sraid Mabot. Blum. Ah, merci, Esperanto. Slanleth, brontola. Spia della Lega Gaelica mandata da quel mangiafuoco. Si fa avanti. Un cenciaiolo col sacco in spalla gli sbarra la strada. Si sposta a sinistra. Il cencio saccaiolo anche. Blum. Prego. Salta a destra. Il cencio saccaiolo anche. Blum. Prego. Si scosta, si sposta, si fa da parte, passa accanto e via. Blum. Tenere la destra, destra, destra. Se c'è un cartello indicatore del Touring Club a fatti da parte, a chi si deve quel pubblico beneficio? A me, che ho perso la strada e che ho collaborato alle colonne del ciclista irlandese con la lettera intitolata Nelle tenebre di fatti da parte. Tenere, tenere, tenere la destra. Cenciaiolo a mezzanotte. Un ricettatore, più probabilmente. Il primo posto dove vanno gli assassini. Lavare i suoi peccati del mondo. Jackie Caffrey, con Tommy Caffrey alle calcagna, va a sbattere in pieno contro Blum. Blum. Oh! Colpito, fiacco di gambe, si ferma. Tommy e Jackie spariscono di qua, di là. Blum, con mani pacchettose, palpa taschino dell'orologio, tasca del portafoglio, tasca del portamonete, dolcezze del peccato, sapone, patata. Blum, attenzione ai borsaioli, vecchio espediente dei ladri, ti urtano, poi ti fregano il borsellino. Il cane da caccia si avvicina annusando, naso a terra. Una sagoma distesa a terra sternutisce. Una curva figura barbuta appare ammantata nel lungo caffetano degli anziani di Sion e berretto da casa con nappe color magenta, occhiali di corno appesi alle pinne del naso, striature di veleno giallo sul viso tirato.